la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, 16:33 primi, e in questo venerdì pomeriggio assolatissimo. Speravamo nella pioggia, invece niente, fa un caldo terribile africano qua a Milano. Comunque saluti e grazie da Oscar Giannino in diretta dagli studi di Milano della 24. Ricordo tutto l'indirizzo, versione di Oscar @radio24.it. E l'argomento di oggi è un argomento che ha a che fare con ciascuno di voi, perché tutti quanti siamo chi in quanto intestatario di un contratto, chi in quanto membro di una famiglia in cui ci sono uno o più contratti di consumo di energia elettrica, ha a che fare con i meccanismi di determinazione del prezzo, appunto, dell'energia elettrica. Qual è la premessa? La premessa è che ci sono stati mesi di riduzione dell'energia, del prezzo dell'energia elettrica alle nostre spalle. E, dopodiché arriva la notizia di aumenti. Sapete che naturalmente si tratta di decisioni che vengono assunte dall'autorità di regolazione del settore. Esplode la protesta, perché uno dice: ma come diavolo è possibile, da che cosa dipendono questi aumenti, e così via. E a questo punto le associazioni dei consumatori sorgono, fanno il loro mestiere, protestano, e a quel punto il TAR della Lombardia blocca gli aumenti. E allora io voglio capire da voi, così, anche se ovviamente do per scontato che siano in pochi a conoscere i meccanismi di determinazione delle tariffe elettriche, che sono molto complicati a dire la verità, cioè ci sono segmenti diversi del mercato, ecco, ma al di là di questo, vi sembra giusto che proceda così la faccenda? Cioè deve essere la magistratura amministrativa a intervenire su i prezzi determinati dall'autorità di settore? Se sì, perché? Qual è il meccanismo che va preso in considerazione? Quello previsto per determinare la tariffa, oppure ci vogliono considerazioni di ordine generale, mettetela come volete, un calmiere dei prezzi e così via? E soprattutto, voi siete tra virgolette soddisfatti della tariffa che pagate? Cioè avete l'impressione che in questi anni la modulazione del costo dell'energia elettrica che avete trovato in bolletta avesse una rispondenza, secondo voi, apprezzabile, giudicata positivamente o negativamente rispetto a come andavano le cose, secondo voi, nel settore, costo delle materie prime, trasformazione, dispacciamento, eccetera, ma immagino che qua solo i tecnici ne sanno abbastanza, ma in generale rispetto alle vostre aspettative, rispetto al vostro reddito e così via? E poi deve essere parametrata all'andamento generale del paese, o deve essere l'andamento del settore mercato per mercato a determinare i prezzi di una cosa come energia elettrica? Sono domande apparentemente semplici. Voi telefonate all'800 24 00 24 e intervenite in trasmissione, che in realtà dietro hanno però un mondo molto complicato, perché la maniera per determinare la tariffa elettrica non è esattamente una cosa semplicissima. Quindi, siccome sulla voce.info ha scritto proprio stamattina il professor Carlo Scarpa, che insegna economia all'Università di Brescia e si occupa anche di una società del Comune di Brescia per il trasporto pubblico locale, il professor Carlo Scarpa, abbiamo deciso di invitarlo per spiegarci. Grazie di essere con noi. È un piacere, buongiorno a tutti. E tra l'altro io vi informo che domani mattina Conti della Belva, come sapete, tutte le mattine dalle 10 alle 12 di ogni sabato, noi siamo in diretta con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e il sottoscritto vostro umile servo. Noi cominceremo, tra le tante altre cose, oltre agli aggiornamenti sulle banche, la BCE, i mercati e così via, ci occuperemo proprio del rapporto annuale che è stato rilasciato proprio ieri da Mediobanca sull'universo delle partecipate locali, sulle 10.000 partecipate locali. Ci porremo il problema dei numeri che escono fuori, come sempre non molto esaltanti per le IRI locali a migliaia dell'ordinamento pubblico italiano. Faremo un conto di chi, quanto perde chi, dove, quali sono i debiti, a quanti miliardi ammentano, e ci porremo il problema di come e se cambierà davvero poi tutto questo con il decreto della riforma Madia, che in realtà promette, vedremo se manterrà, ma promette un intervento di riordino sulle partecipate locali. Quindi vedremo se sopravviverà anche la società guidata dal professor Carlo Scarpa. Allora, professor Scarpa, ripartiamo dall'inizio. Spieghiamo un secondo da dove nascevano, dopo mesi di ribassi, l'aumento delle tariffe elettriche, e ci spieghi un pochino che cosa è successo e se questa decisione è giusta o meno del TAR. Allora, i prezzi sono aumentati all'ingrosso, intanto, non si sa esattamente bene perché, però l'autorità sospetta che qualcuno stia un po' manipolando il mercato all'ingrosso e quindi stia tirando sui prezzi, vuoi con un'intesa, vuoi con comportamenti forse poco corretti, non lo sappiamo, ma l'autorità ha espresso questo dubbio e infatti ha scritto anche all'autorità antitrust invitandola eventualmente a fare gli accertamenti del caso. Ha scritto alle imprese, vuole vederci chiaro. Però nel frattempo i prezzi sono aumentati all'ingrosso e quello che ha dovuto fare l'autorità è stato prendere atto di questo e aumentare i prezzi anche al dettaglio, perché sennò i dettaglianti si trovano nelle peste, cioè si trovano ad avere un aumento dei loro costi che continuano a pagare senza poter avere un aumento dei ricavi. E questa è la questione, quindi un aumento dei costi all'ingrosso abbastanza dubbio, un ribaltamento di questo aumento a valle, quindi sui consumatori finali, su questo ribaltamento c'era francamente abbastanza poco da dire, il fatto che il TAR abbia voluto bloccare questo perché forse a monte c'è qualcuno che manipola il mercato, questa è la pietra, l'oggetto del contendere. Secondo me è un errore clamoroso perché confonde le responsabilità e va a mettere nei guai delle imprese che probabilmente non c'entrano assolutamente nulla, però questo è quello che è successo. Ora, quando si tratta di sospetti di manipolazione del mercato, naturalmente chi non ha un'idea di come si determinino i prezzi all'ingrosso nei momenti di picco e non di picco di assorbimento di energia elettrica, ricordiamo a tutti che la produzione e la distribuzione di energia elettrica ha una particolarità rispetto ad altri tipi, no, di servizio pubblico, cioè è un mercato che funziona senza poter avere scorte da immettere, nel senso che la produzione e il consumo devono essere pareggiati, quindi nei momenti di picco si ricorre, come è evidente, a potenza installata ma non utilizzata per soddisfare la domanda in tempo praticamente reale. Questo significa che nella determinazione del prezzo si varia di momenti in momenti sul mercato, per capirci, c'è una distinzione poi per segmenti di mercato che concorre a definire la borsa elettrica, eccetera eccetera. In quale di questi particolari meccanismi si può nascondere, tentando di spiegarlo in maniera non troppo tecnica ai nostri ascoltatori, la possibilità di una manipolazione da parte di alcuni operatori a danno di altri operatori? Allora, proviamoci, anche se discutere dei tecnicismi non è facile. Allora, il prezzo all'ingrosso fondamentalmente ha una prima componente che è quella che discende semplicemente da un incontro, come dire, nozionale tra domanda e offerta, cioè io dichiaro la mia disponibilità a offrire offerta, a offrire energia elettrica, dall'altra parte c'è la richiesta di energia elettrica da parte del sistema, il punto di equilibrio è quello nel quale la domanda è uguale all'offerta e questo determina il prezzo. Però non basta, perché? Non basta perché paese è frazionato in tante zone e ci possono essere delle situazioni nelle quali in una parte del paese c'è molta offerta e in un'altra parte del paese ce n'è meno e dobbiamo invece essere sicuri che a fronte di ogni elettrone che io richiedo c'è qualcuno che lo genera questo, ok? E il problema è quindi il mercato secondario, il mercato dei cosiddetti servizi di dispacciamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere la disponibilità effettiva della capacità in quel momento e dobbiamo essere pronti anche a fare fronte a aumenti improvvisi o diminuzioni improvvise della disponibilità di energia. Ad esempio, cosa vuol dire manipolare questo mercato? E io potrei dire, il mio impianto non è disponibile, quindi se, perché è in manutenzione, quindi diminuisco adattamente l'offerta e se domani tu vuoi richiedere la disponibilità del mio impianto mi devi pagare un extra. Ora, questo è quell'extra costo che io potrei ottenere dichiarando falsamente che il mio impianto in qualche modo non è disponibile. Così come ci potrebbe essere qualcuno che sul lato della domanda compie una manipolazione del genere, perché non sono soltanto i generatori che operano nel mercato all'ingrosso, ci sono anche i grandi consumatori che possono essere, come si dice, interrotti, cioè che, visto che loro consumano tantissima energia, possono essere anche interessati ad avere uno sconto a fronte di una di questa loro disponibilità, di questa flessibilità che loro danno al sistema. E allora, per ipotesi evidentemente, non sappiamo se è questo che avviene, ma per ipotesi potrebbe avvenire che un grande consumatore dichiara ad esempio di non poter assolutamente interrompere il processo, quindi richiede energia, spinge verso l'alto il prezzo, poi a un certo punto riduce questa la sua disponibilità, dando flessibilità al sistema e facendosela pagare. Ci possono essere diversi meccanismi, ovviamente è tutto teorico, c'è tutto da verificare questa cosa. Naturalmente noi dobbiamo anche ricordare ai nostri ascoltatori che i grandi operatori che ci sono sia nella produzione a monte, in verticale, di grandi quantità di energia elettrica, sia come abbiamo visto nei grandi consumatori, quelli che cioè appartengono a grandi gruppi in settori in cui le trasformazioni degli input di produzione richiedono alti assorbimenti di energia, la siderurgia per fare un esempio, ma non solo, possono avere degli interessi mascherati di questo tipo. Per esempio, tra i grandi produttori, in relazione all'aumento della potenza installata grazie agli incentivi che abbiamo avuto per fotovoltaico e fonti verdi, né? Al di là in aggiunta oltre al tradizionale idroelettrico, che cosa è avvenuto? Che noi abbiamo avuto un ingente stock potenziale di centrali a ciclo combinato, che era stato il grande modello su cui aveva puntato l'Enel nazionalmente dopo il no all'energia nucleare, virgola, e che sono anche tra l'altro il segmento di produzione attraverso combustibile fossile di energia elettrica, quello più efficiente, che però rispetto ai costi di esercizio ha un costo maggiore e quindi risultano nel consumo ordinario fuori dai momenti di picco in realtà non in esercizio, anche se hanno un bel costo per i gestori, come potete immaginare, e a quel punto nei momenti di surplus si realizza, per così dire, un tentativo di recupero dell'utile medio ordinario quotidiano che non si realizza su questa quantità di produzione potenziale di energia elettrica, ripeto, che appartiene a centrali potenti e molto efficienti. Dall'altra parte, quelli che hanno un alto consumo possono farsi pagare troppo l'onere di interrompibilità. E a propria volta poi hanno quasi sempre questi gruppi di autoconsumo e autoproduzione di energia elettrica. Ma il piccolo problema, e ripartiamo di qua dopo il minuto di informazione stradale, è che sotto questi grandi produttori e consumatori a monte c'è tutto un bel po' di imprese, che sono quelli che vendono al dettaglio, che in realtà potrebbero essere le, tra virgolette, vittime di questa decisione del TAR che sospende gli aumenti. Questo è sempre un tentativo di farvi spiegare quanto sia complessa questa faccenda, ma non immaginate che non ci siano anche soggetti di quelli che, tra quelli che vi vendono l'energia, che rimangono fregati se non sappiamo veramente i dati sulla cui base è fondato o meno quell'aumento di tariffa che aveva deliberato l'autorità. Tra un minuto ripartiamo da qui per spiegarvi chi sono questi piccoli che ve la vendono. La la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati per tentare di spiegare, prima di sentire la vostra opinione sul costo dell'energia elettrica, cosa è stato dovuto la decisione, sia pure con delle riserve, da parte dell'autorità. Torniamo a aumentare le tariffe, e perché il TAR, perdonate, la Lombardia, competente sulle decisioni dell'autorità dell'energia, ha detto no, neanche per idea, blocchiamo gli aumenti. Abbiamo tentato di spiegarvi innanzitutto cosa può avvenire di storto, di opaco, che può manipolare il prezzo nella parte alta sia dell'offerta che della domanda di energia, ma resta il fatto che non sono questi gli unici operatori, non è vero, professor Scarpa? Assolutamente, il tema è proprio quello della presenza dei dettaglianti. Intendiamoci, alcuni di questi dettaglianti sono legati peraltro ai grandi produttori, e nell'energia, per intenderci, uno di questi. Però non ho, intanto non sappiamo minimamente se Enel ha fatto qualunque cosa di sbagliato nel mercato monte. E poi comunque Enel è uno, ma ci sono tanti dettaglianti, piccoli e grandi, che potrebbero non aver fatto assolutamente nulla nel mercato monte, anzi che magari non hanno nessun legame con le imprese di generazione e che semplicemente fanno da intermediari. E questi chiaramente stanno rimanendo col cerino in mano. E quindi lei dice nel pezzo che ha scritto, in questo caso la decisione di stoppare, in assenza di motivazioni chiare, l'aumento deliberato sarebbe come bastonare i fruttivendoli perché la cicchita aumenta il prezzo delle banane, che mi sembra una maniera abbastanza chiara per tentare di spiegare a chi è in ascolto. Prima di andare a quel po' che si è capito delle ragioni del TAR, sentiamo un po' di nostri ascoltatori su come la pensano loro sulla tariffa elettrica. Giovanni, dalla provincia di Varese. Prego, Giovanni. Buonasera. Ma diciamo che tutto quello che avete spiegato probabilmente si basa più su, chiamiamola così, macroeconomia che la microeconomia. La microeconomia è quella delle fatture che riceviamo noi consumatori. Già. E io utilizzo diversi operatori per l'energia elettrica piuttosto per il gas. È buffo come oggi, dopo che per esempio ci sono stati cambiati, sostituiti i contatori con quelli di ultima generazione digitali, però ci arrivano bollette con conguagli, poi noi dobbiamo chiamare per dare noi i numeri. E lo stesso succede anche per il gas, dove abbiamo contatori che sono raggiungibili da impiegati, e poi se noi non chiamiamo vengono sempre addebitati i cosiddetti consumi previsti, che chissà perché sono sempre superiori a quelli effettivi. Quindi alla fine poi noi paghiamo sempre, indipendentemente dai costi effettivi dell'energia alla fonte. Quindi tutta questa ondata di just in time del digitale rispetto al consumo reale, Giovanni non la vede. Giorgio da Padova che dice? Buonasera Giannino, io volevo fare una domanda anche due al suo ospite. Sì. E volevo capire come mai, in un periodo in cui ormai l'elettricità serve per parecchie cose, condizionatore, certo, frigo, congelatore, si continua ad usare una potenza di 3.3, e quindi come mai costa di più l'energia a 4.5 anziché 3.3? In seconda istanza vorrei capire anche come mai devo essere io a pagare le perdite di rete, come se l'acquedotto mi facesse pagare i buchi che ha nei tubi fino a casa mia. Aspetti, aspetti, secondo lei l'acquedotto non glieli fa pagare? Non ho visto nessuna perdita di rete nel cosa diversa dell'acqua. Cosa diversa dall'indicarlo in bolletta. Però la domanda è giusta. Allora, quindi, perché la differenza rispetto alla potenza installata dell'impianto, e il perché pagare esplicitamente, io mi permetto di aggiungere questo verbo, sulle perdite di rete? Le due domande al professor Carpa. Sentiamo ancora Mattia da Modena. Prego, Mattia. Sì, salve. Una piccola precisazione rispetto a quello che state dicendo. Cosa sta succedendo attualmente al prezzo dell'energia elettrica? La fattura dell'energia elettrica sta assomigliando sempre di più alla fattura della benzina, tanto per intenderci, in cui il costo della materia prima, come spiegavate poc'anzi, sta letteralmente crollando. Ricordiamo che gli operatori termoelettrici da anni vivono una situazione tragica dal punto di vista del conto economico. Ricordiamolo, è una crisi analoga a quello del settore della raffinazione. Sì, sì, esatto. Ora, cosa sta succedendo? Sui mercati, visto che la commodity di energia elettrica è crollata, non vale più nulla per molti fattori che lei prima ha tentato di spiegare, non voglio entrare nel dettaglio. Cosa esiste? Un altro 10% della fattura dell'energia elettrica è costituito dai corrispettivi del dispacciamento. Esatto. Quello è un mercato, però attenzione, che non ha nulla a che fare con la commodity di energia elettrica. Sì. È un mercato dei servizi. gli operatori che stanno morendo, ok, gli operatori termoelettrici che stanno morendo, prima di morire, laddove hanno la possibilità di offrire un servizio che nessun altro, che nessun'altra tecnologia è in grado di offrire, prima di morire battono un colpo su quel tipo di servizio offerto. Quindi bisogna, vediamo dove andrà a parare comunque, l'indagine dell'autorità. Mattia da Modena lancia, per così dire, un grido di dolore. Spero che lo abbiano capito più dei nostri ascoltatori, però ne sposo le ragioni. Dante da Milano, in fretta, Dante, prego. Salve Giannino, io aggiungo semplicemente che, diciamo, in questo marasma di cui stiamo parlando, energia elettrica, c'è poi chi come me sviluppa software per piccoli broker energetici che vendono sulla borsa e che, diciamo, cercano di prevedere, scommettere sul fatto che, come si dice tecnicamente, il mercato andrà lungo o corto per essere poi premiati dell'energia che vendono o che non vendono, riallacciandomi al discorso che si faceva prima. Quindi questo per dire che poi al piccolo cittadino diventa complicato capire i meccanismi dietro tutto questo marasma dell'energia elettrica, tutto qui. E c'è un mercato, per così dire, del future a breve, di un prezzo che è molto breve nella sua formazione. Allora, professor Scarpa, torniamo, innanzitutto la risposta alle due domande dell'ascoltatore qual è? Allora, la risposta alla seconda, quella sulle perdite, ma intanto bisognerebbe apprezzare il fatto che in questo mercato c'è trasparenza, perché esatto, qualunque perdita da qualche parte te la fanno pagare. Sì. In secondo luogo c'è un problema anche tecnico, quello che si chiama la conduttanza dei cavi elettrici. Quando io trasmetto l'energia elettrica, fisicamente se ne va, se disperde nell'aria una certa quantità. Per cui emetto 100 e ne esce mediamente 96-97. Qualcuno pensa deve pur pagare. Quindi esplicitare il costo oppure no è una questione estetica. E tutto sommato preferisco quello che avviene anch'io a quello che avviene altrove. Ma invece sulla tipologia di impianto e con le tariffe diverse? Sulla tipologia di impianto, attenzione, perché se io ho una potenza garantita di 3 kW piuttosto che non di 4,5 o di 6, vuol dire che io sto impegnando il mio distributore a darmi almeno quel quantitativo di energia e quindi in qualche modo lo sto costringendo a sua volta a bloccare parte della sua capacità per servire me. Più chiedo, più questo subisce un costo e quindi questo costo viene ribaltato su di me. Anche questo non credo che sia un principio sbagliato. Ma invece dove si può liberalizzare e rendere meno opaco il mercato per evitare i dubbi che il TAR rigira l'autorità antitrust? Questo è molto difficile. In realtà io già da un po' di tempo che guardo il mercato dei servizi di dispacciamento e osservo dall'esterno, non lavorando per Tizio Carcaio, ma osservo dall'esterno che avviene esattamente questo, che le imprese, marginando poco sul mercato spot, come dire, cercano di recuperare margini giocando in modo, credo, legittimo qualche volta, forse qualche volta no, non so, nel mercato dei servizi di dispacciamento. Sicuramente il fatto che ci siano delle regole spinge le imprese a giocare contro le regole, a cercare di battere il regolatore, questo è evidente. Se si riuscisse a ritagliare questo mercato liberalizzando forse un po' di più queste la formazione di questi prezzi, sarebbe meglio. Non lo è per niente. Comunque io ringrazio il professor Scarpa, speriamo di avervi aiutato a capire un po' di più. La materia è complicata, mi rendo conto. Comunque appuntamento domani come sempre dalle 10 alle 12 per parlare di municipalizzate locali e per parlare anche ovviamente di banche, crescita eccetera eccetera. Domani con me Carlo Alberto Canavale Maffè, Renato Cifarelli e Mario Seminerio. A domani.